Il punto di Stefano Folli. Il nuovo segretario della Lega, Salvini, sta imprimendo al suo partito una decisa svolta a destra, a cominciare dal tentativo di stabilire una stretta alleanza con la francese Marine Le Pen, erede peraltro della tradizione del più determinato centralismo, mentre il Carroccio è autonomista per definizione e addirittura separatista. Il fatto è che la crisi del leghismo è evidente e le vecchie parole d'ordine non servono più a mobilitare un elettorato che semmai è attratto da Grillo oppure preferisce restarsene a casa indifferente. Allora il ministro Kyenge diventa il nemico numero uno. Tuttavia è un'operazione non solo pericolosa, ma soprattutto debole e di corto respiro. Marine Le Pen in Francia ha costruito i suoi consensi negli anni. Il leghismo sotto questo aspetto sembra invece un movimento che cerca di far dimenticare i suoi fallimenti e i suoi scandali.